Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo a giovedì, quindi nuovo appuntamento con l'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Carlo, ci è capitato già altre volte di parlare di denti, perché si dice via il dente, via il dolore, ma se invece i denti dobbiamo aggiungerli, metterli, perché li abbiamo già persi, i dolori vanno da un'altra parte, cioè nel nostro portafoglio. Sì, non è la prima volta che l'ADICO si trova a dover parlare di problemi legati con i dentisti. Questa volta volevamo un pochino riprenderli, perché a finire sotto i riflettori di cronaca è stata una nota società in franchising, la Vital Dental, di cui anche l'ADICO si è trovata ad avere dei soci, e in questa vicenda abbiamo proprio delle persone che, in merito a una società che risulta avere dei problemi giudiziari, si trovano anche delle persone che insomma lamentano di aver ricevuto delle cure inadeguate, e quindi aver sborsato tanti soldi e avuto tanti dolori. Ecco, tu hai un caso che in qualche modo state seguendo, ma sappiamo che da qualche anno insomma c'è il famoso turismo dentale, no? Perché sempre di più in altri paesi fanno pare le cose abbastanza bene e costa meno della metà o la metà, insomma, quindi cifre decisamente più basse, tanto che a uno conviene affrontare un viaggio, pagarsi un albergo, star fuori anche 3-4 giorni e alla fine del discorso in una settimana ritorna a casa con i denti rifatti, avendo speso la metà di quello che spendeva in patria, diciamo così, e magari anche con tempi molto più lunghi. Sì, allora due cose velocemente volevo premettere. Innanzitutto, per quanto riguarda Vital Dental, che appunto hanno avuto queste persone che hanno questi problemi, certamente l'ADICO è a disposizione per fornire assistenza, come è capitato nell'ultimo caso di una persona che si è lamentato di aver speso diverse migliaia di euro e aveva ancora molti dolori e ha contestato il lavoro fatto male. La seconda cosa, proprio legata al fenomeno della migrazione verso questi paesi dell'est, dove e non serve tra l'altro preciso neanche pagare tanti alberghi, perché queste strutture, da quello che insomma sono le informazioni che abbiamo, sono anche organizzate per donare l'ospitalità. Certo che le tariffe sono molto più convenienti rispetto a quelle che sono le tariffe praticate in Italia, e al di là di quelle che poi sono le posizioni che le associazioni di categoria possono rispetto a questo fenomeno di migrazione, dove prevale molto il scetticismo, bisogna dire che la professionalità e i prezzi, a nostro avviso, fanno ben pensare il contrario. Certo, quindi probabilmente questa cosa del turismo dentale continuerà, a meno che non si inizino a cambiare probabilmente i prezzi nei nostri studi dentistici. Allora, da noi, Francesco, possiamo parlare tranquillamente come ADICO per esperienza, perché i problemi di persone legate al lavoro sui denti ne abbiamo veramente tantissimi, e devo ammettere che di lavori fatti tantissimi, i casi che l'ADICO oggi ha sono tutti casi di lavori eseguiti in Italia, per cui fatte le dovute premesse, anche qui bisogna dire come alla fine non è la professionalità ma è la differenza di prezzi che spingono le persone ad andare in una direzione rispetto ad un'altra. Certo, è anche vero che noi per esempio contestiamo sempre, come quando si va dal dentista, si inizia ad allestire un cantiere dove poi non si capisce mai quando finirà, ed è anche vero che quando si finirà poi è ora già di incominciare a metterci mani. In occasione quella di questo approfondimento è veramente pensare che si debba arrivare a definire delle tariffe certamente più eque rispetto a quelle che sono le pubblicità che leggiamo, e poi di fatto quando si vanno in queste cliniche non si finisce più a terminare il lavoro. Certo, questo caso che state seguendo, ricordiamo, per quanto riguarda questa clinica in franchising che fa capo a una società spagnola, serve a ricordare, insomma, che possiamo sempre farci fare più preventivi per andarci a curare i denti, in modo che la scelta nostra sia oculata, cioè non limitiamoci ad andare da un dentista, ma facciamone pure tre o quattro, facciamoci spiegare bene quale potrebbe essere il lavoro, in maniera che sia ben chiaro quale sarà anche la spesa finale e quale sarà l'ottenimento, il risultato di tutte queste operazioni. Sì, soprattutto, Francesco, abituiamoci a tenere un preventivo scritto e quindi conservarlo anche nella durata dei lavori, perché poi troppo spesso si inizia con la buona fede e si finisce sempre malamente. Noi vediamo il comunico, questo tipo di problemi ne seguiamo moltissimi, li abbiamo tutti risolti abbastanza bene, in tempi anche molto celeri, quindi a chiunque si trova nella situazione di lamentare lavori mai eseguiti o dolori, siamo a disposizione, insomma, per fornire l'assistenza e fare anche le necessarie verifiche, perché poi ricordiamo che prima di, insomma, giudicare un lavoro bisogna anche avere un'analisi di quello che è stata, di quella che è l'attività che è stata fatta e se quello che è stato fatto è commisurato a quello che era la necessità di fare. Certo. Va bene, ricordiamo www.associazionedifesaconsumatori.it, il sito dell'Adico. Grazie a te Carlo, al prossimo appuntamento. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.